Pronto? Sì, la prego 3, sì. Vuol dire che sa per cosa ha dato i numeri. È strano, però ti ho mai sentito così basso. Pensavo che eri in campagna, ma non sei in campagna con Saturneco, quindi. No, sono in campagna. In campagna, sì. Ehi, sono in campagna, c'è un coniugi 3000 sì. Ah, pensavo che eri con Saturneco a casa tua. Io ti strano che ti senti così basso. Mario, parte per presenza alla Cina.